America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. We honor the inherent dignity and worth on equal rights of every human being and the courage to defend human rights, dignity and freedom. Thank you very much. E l'ambiente al Council on Foreign Relations, dove un paio di giorni fa si è tenuto il Civil Courage Prize della fondazione Train. Sono $50,000 che sono andati quest'anno a due personaggi che hanno fatto cose molto importanti nel campo dei diritti civili: Lidia Cacciaco Ribeiro e Triveni Acciaria, e per il loro impegno in particolare nella lotta contro il traffico e lo sfruttamento degli esseri umani a scopo sessuale. Ve ne parlo oggi perché proprio oggi al Parlamento europeo si vota una proposta di direttiva contro lo sfruttamento sessuale dei minori, e se sarà adottata questa direttiva prevede sanzioni più severe, l'inclusione dell'adescamento online tra i reati punibili anche se questo è commesso fuori dai confini dell'Unione Europea, e soprattutto il sostegno della vittima. Dunque oggi di questo si parla in Europa, oggi di questo si parla, o meglio qualche giorno fa si è parlato in America, ma se ne continua a parlare. Perché? Perché proprio in quell'occasione Lidia Cacciaco Ribeiro ha fatto una denuncia molto ferma, molto importante contro Facebook, dicendo che Facebook oggi continua in qualche modo a coprire la diffusione della pornografia minorile. Cominciamo proprio dai numeri, cominciamo proprio dal rapporto delle Nazioni Unite, secondo cui la percentuale di donne tra i 15 e i 50 anni che ha avuto un'esperienza di violenza fisica e psicologica domestica va dal 15%, il minimo, in Giappone, al 71% in Etiopia oppure in Perù. Varia tra lo 0,3 e l'11,5% la percentuale di coloro che sono state vittime di una violenza sessuale non domestica. Le prime esperienze sessuali per molte donne non sono delle esperienze volontarie, addirittura il 24% in Perù, il 28% in Tanzania, il 30% in Bangladesh, fino al 40% in Sudafrica hanno la prima esperienza sessuale come conseguenza di una violenza, e questo fenomeno riguarda soprattutto donne e bambine, ragazzine di 10, di 8, di 12 anni, ma riguarda anche molti bambini, i quali finiscono per essere vittime di violenza sessuale. Sempre secondo le Nazioni Unite, qui a New York, uno studio che è stato diffuso a settembre, appena qualche settimana fa, il 20% delle donne e il 5-10% degli uomini ha subito in qualche modo una violenza sessuale in età infantile. Complessivamente la percentuale dei bambini che sono stati abusati o maltrattati, perché poi c'è anche il maltrattamento fisico al di là di quello sessuale, varia tra il 25 e addirittura il 50% a seconda delle differenze regionali. I learned that being a citizen meant to be a human rights activist since I was a little girl, and then I became a journalist 25 years ago, and then I opened a shelter 10 years ago because I was tired of talking about violence against women and not really doing anything about it. Lidia Cacciaco Ribeiro è una delle più conosciute giornaliste investigative messicane, la quale a un certo punto ha deciso di dedicarsi alla tutela del diritto delle donne, è diventata un attivista, ha costituito un centro a Cancun per l'assistenza a donne che sono state oggetto di violenza o che sono sotto ricatto, che dà consulenza legale, psicologica, medica ovviamente, a donne, a bambini, a bambine, a ragazzine che sono state vittime di violenza sessuale, di violenza domestica e soprattutto di traffico, perché il Messico è una delle principali destinazioni del traffico sessuale minorile. Some people said that 20,000 girls and women are being trafficked every year within Mexico. Ecco, ho chiesto a Lidia quale fosse la dimensione del traffico in Messico, e lei mi dice si parla di 20,000 o addirittura di 80,000 giovani, ragazzini, ragazzine che vengono movimentati, per usare un termine blando, nel corso di un anno. Sottolinea che in Messico la giustizia è molto fragile, non ci sono dei mezzi poi per avere questo tipo di informazione, per avere un numero, però per lei è una certezza che il fenomeno va ben al di là dei confini nazionali. Ci sono vittime in Guatemala, dice, in Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba, e perfino arrivano dalla Cina, dall'Uganda, e racconta una storia, devo dire, molto toccante, la storia di un ragazzino che si chiama Raul, che era arrivato al suo rifugio da bambino perché sua madre era sposata con quello che poi lei scoprì essere un trafficante di esseri umani. Quando l'ha scoperto è fuggita, però quest'uomo era molto violento anche col bambino, e gli diceva: tu sei un cane, al punto che il bambino si era convinto di essere un cane, di essere senza cuore. So I wrote their names in the book and they wanted to kill me and torture me and they put me in jail and I got out and I demonstrate, I prove that they were doing illegal stuff. E nel momento in cui arriva, la Ribeiro viene rapita, rischia di essere uccisa. Dice che appunto queste persone, lei aveva messo nomi e cognomi di personaggi importanti messicani che erano stati coinvolti nella prostituzione minorile, nello sfruttamento della prostituzione minorile, e ha parlato di 200 bambini, aveva le prove di 200 bambini in questo traffico che coinvolgeva imprenditori, membri del governo addirittura. E quando lei l'ha scritto è stata rapita, dice: hanno cercato di uccidermi, poi mi hanno incarcerato, mi hanno torturato, però è riuscita a provare che tutto quello che aveva scritto era vero. Alla fine è uscita di prigione. Dunque una vita di straordinario sacrificio anche sul piano personale, di straordinario rischio per portare avanti questa missione. E dunque quando torna trova Raul e con lui disegna un cuore di carta, gli dice di conservarlo, di lavorare sul proprio cuore, perché il suo non è un cuore di pietra. E un giorno lui mi dice che non ha più bisogno di questo cuore di carta, perché aveva capito come amare, prendersi cura degli altri. Una storia, dice, che mi ha insegnato che se non aiutiamo questi bambini, non solo le femmine ma anche i maschi, se non insegniamo loro che esiste un mondo diverso da quello che hanno conosciuto, beh, nulla può davvero cambiare. Quindi ha questa struttura, questa rete di ben 42 rifugi in Messico che sopravvivono grazie ai fondi della comunità internazionale. Ognuno di questi centri ospita fino a 60 persone e è incredibile, perché dice che in appena 8-10 mesi questi bambini riescono a superare il trauma, a ritrovare fiducia in se stessa grazie alla terapia. Stima il numero di ragazzini adolescenti che hanno salvato dal traffico e dalla prostituzione in 2000. In 1993 I visited red light area with filmmaker and millions of girls are there. Questa è la voce di Triveni Acharya, che è presidente della Rescue Foundation in India, ha lavorato molto nelle luci rosse a Mumbai. What can you tell us about it? Were you touched by this evening event? Oh yes, indeed. I'm very honored to be part of this event where two fantastic women, one Mexican journalist and one Indian woman, both of them developing a fantastic job rescuing women and children from human trafficking. Questa è una dichiarazione di Michelle Bachelet, l'ex presidente del Cile, che oggi è sottosegretario generale alle Nazioni Unite e direttore esecutivo del Centro dell'ONU per le donne. Le sentiremo ancora domani. Questo è un tema troppo importante per esaurirlo in una sola puntate, un tema, vi incoraggio, da discutere su internet. Venite nel nostro sito, metteremo le interviste con queste persone su America 24, e quindi vi incoraggio a partecipare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. E seguitemi su Twitter, Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di violenza sulle donne. Bene, sono state scritte molte canzoni sulla violenza contro le donne. Ne ho scelta una da farvi ascoltare. Nickelback, Never Again, che non succeda mai più. He's drunk again. It's time to fight. She must have done something wrong tonight. The living room becomes a boxing ring. It's time to run when you see him. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.